Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, abiti del continuo nei vostri cuori. Dedichiamo ancora oggi il nostro spazio alla persona amata del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo considerato nelle trasmissioni precedenti che l'Antico Testamento è l'Evangelo di Yahweh, cioè di Cristo. Da questa trasmissione in poi prendiamo in esame la persona di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Perché ciò che andrò a esporre possa essere compreso nella totalità della rivelazione di Dio, facciamo un breve ripasso di ciò che abbiamo detto. L'Antico Testamento attribuisce alla divinità di Israele dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim, Yahweh. Mentre il termine Adonai è un nome comune plurale, cioè signori, mentre il termine Elohim è un nome generico plurale e andrebbe tradotto con Di, il tetagramma, che noi leggiamo con Yahweh, è il vero nome proprio di una persona. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e ha rivelato per la prima volta a Mosè. Perciò noi dobbiamo dire che la fede dei santi dell'Antico Testamento non era in un Elohim vago, in una divinità sconosciuta, o in Dio come noi lo intendiamo oggi, ma la loro fede era riposta in Yahweh, in una persona che era la loro divinità. Abbiamo pure considerato, alla luce della rivelazione di oggi, che la divinità che si era rivelata ad Israele è pluripersonale, cioè in essa vi sono più persone. Lo dimostrano i nomi al plurale, Elohim e Adonai, e la struttura stessa della Torah, cioè la legge di Dio. Gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Abbiamo considerato pure che Yahweh ha caratteristiche antropomorfiche, cioè che ha un corpo, e che ha caratteristiche antropopatiche, cioè possiede dei sentimenti e che si è rivelato nella persona dell'angelo dell'Eterno. L'angelo dell'Eterno era l'immagine sostanziale di Elohim, la persona nella pluralità della loro divinità alla quale l'essere umano può accedere. Abbiamo concluso la nostra ricerca nell'Antico Testamento constatando come esso sia la storia o l'Evangelo di Cristo. Questo particolare mette la fede cristiana in una posizione assolutamente unica nella storia delle religioni, perché essa non è nata solo 2000 anni fa, ma si perde nella notte dei tempi. Dobbiamo rimarcare la presenza di Yahweh nell'Antico Testamento. È Yahweh che crea Adamo ed Eva, che gli fa delle tuniche di pelli, che chiude l'arca, che parla e si fa vedere ad Abramo, che lotta con Giacobbe. Troviamo la sua presenza corporea quando Mosè lo incontra in una fiamma di fuoco. Da quel momento, la presenza fisica di Yahweh condurrà Mosè e il popolo di Israele verso la terra promessa. Yahweh si fa vedere a Giosuè con una spada sguainata e accompagnerà il popolo di Dio verso la conquista della terra promessa. Al tempo dei giudici, Yahweh si fa vedere più volte con una fisicità umana, quando il popolo di Israele arriva al culmine della potenza politica e militare. L'idolatria si infiltra nella fede del popolo di Dio e Yahweh manda a più riprese dei profeti affinché il popolo si distolga dall'insano cammino. Il popolo non ascolta e viene deportato in terra straniera. Dopo il ritorno nella terra natia, nel 536 prima di Cristo, Yahweh manda i profeti Aggeo, Zaccaria, Malachia per indurre il popolo a seguire il vero Dio. L'ultimo dei profeti, Malachia, profetizzerà 400 anni prima di Cristo che Yahweh avrebbe mandato il messaggero a preparare la via davanti a lui. Dopo il profeta Malachia, Yahweh, Dio, tace per 400 anni. Nessun profeta alza la voce proclamando con la solita autorità: così dice Yahweh. Queste sole espressioni rendono la Bibbia un testo unico. La Sacra Scrittura è l'unico testo sacro della lettura religiosa di tutto il mondo ad avere la pretesa di affermare che in esso sia Dio a parlare in prima persona. La dicitura "così dice l'Eterno" si trova più di 300 volte nella Bibbia, conferendole un'autorità nel campo della fede che non ha paragoni. Ma ecco che dopo tutta questa storia, che leggiamo nell'Evangelo secondo Luca qualcosa di unico. Ascoltiamo. Ora, nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. In un periodo ben preciso della storia, dunque, Giovanni il Battista riceve da Dio una rivelazione, cioè un rema. Giovanni il Battista rompe, dunque, il lungo silenzio di 400 anni con una testimonianza che ha dell'incredibile. Ascoltiamola attentamente. E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: chi sei tu? Egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò: io non sono il Cristo. Allora essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei tu Elia? Egli disse: non lo sono. Sei tu il profeta? Ed egli rispose: no. Essi allora gli dissero: chi sei tu, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno domandato? Che dici di te stesso? Egli rispose: io sono la voce di colui che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei. Essi gli domandarono e gli dissero: perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Giovanni rivelò ai giudei che vi fosse qualcuno in mezzo a loro che essi non conoscevano e che questa persona fosse più grande di lui. Notiamo che nessun nato di donna è più grande di Giovanni il Battista, e neppure Maria, la madre di Gesù. Inoltre, questa persona l'aveva preceduto, anche se veniva dopo di lui, e che a questa persona egli non era degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Chi era dunque questa persona? Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù, disse: questi è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché era prima di me. Giovanni identificò in Gesù l'uomo al quale non era degno di sciogliere il legaccio dei calzari e che era prima di lui. Nel greco l'espressione è ancora più significativa e leggiamo: in mezzo a voi è stato chi voi non conoscete. Esprimendosi al passato prossimo, Giovanni dichiara che colui che è presente era antecedente. Come poteva Gesù essere nato prima di Giovanni, dal momento che era nato, secondo la testimonianza degli evangelisti, 6 mesi dopo il Battista. E ancora, come poteva Gesù essere sia la radice e la progenie di Davide? Gesù non negò mai la testimonianza di Giovanni, anzi, riconobbe nel Battista il messaggero inviato a preparare la via davanti a Yahweh. Infatti, leggiamo, perché questo è colui del quale è scritto: «Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te». Se confrontiamo la profezia del profeta Malachia al capitolo 3 con l'affermazione di Gesù, notiamo come egli applichi a se stesso questa profezia. Fin dalla sua apparizione sulla terra, Gesù è stato unico. Già quando fu posto in una mangiatoia, gli angeli lo presentarono come il Salvatore, Cristo, il Signore. Giovanni ora lo presenta come Yahweh. E Gesù che cosa disse di se stesso? È vero che egli non ha mai negato la testimonianza di Giovanni. Ha mai Gesù espresso chiaramente d'essere Yahweh, la divinità di Israele e dei cristiani? Secondo alcuni studiosi, Gesù non avrebbe mai detto chiaramente d'essere Dio, e gli autori biblici farebbero menzione alla sua divinità pochissime volte. Evidentemente, però, tali studiosi non hanno compreso le parole di Gesù. Fin dall'inizio del suo ministero, Gesù ha detto espressamente di essere Dio, identificandosi con Yahweh. Per decine di volte nella sua vita terrena, Gesù ha espresso la sua deità, citando il nome di Yahweh, Io Sono. Per comprendere le asserzioni di Gesù, occorre tener presente l'episodio dell'incontro della divinità di Israele con Mosè. Quando l'angelo di Yahweh apparve a Mosè in mezzo ad una fiamma di fuoco, leggiamo la seguente descrizione nel libro dell'Esodo. Allora Mosè disse a Dio: «Ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono». Poi disse: «Dirai così ai figli di Israele: l'Io Sono mi ha mandato da voi». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai così ai figli di Israele: l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo. Questo sarà per sempre il mio nome, col quale sarò ricordato per tutte le generazioni». Yahweh Dio, la divinità di Israele e dei cristiani, si è rivelato come l'Io Sono. L'espressione Io Sono, in greco ego imi, si trova varie volte nel Nuovo Testamento. L'Evangelista Giovanni riporta questa espressione, detta da Gesù, 27 volte, 23 volte nel suo Vangelo e 4 volte nell'Apocalisse. Gesù usa questa espressione 9 volte in forma diretta, le altre volte sotto forma di un verbo. Ma questi particolari li prenderemo in esame la prossima volta. Che l'Eterno, nel mare di voci che senza tregua ci circondano, ci dia ad ascoltare solo la sua voce, che parla quasi impercettibilmente nel profondo di noi stessi, e ci benedica, preparando i nostri cuori ad accettare la verità che ci rivela. Amen. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Terminiamo oggi le nostre riflessioni in merito alle affermazioni di Gesù quando disse «Io sono». Abbiamo detto nella trasmissione precedente che l'Evangelista Giovanni riporta questa espressione, detta da Gesù, 27 volte, 23 volte nel suo Evangelo e 4 volte nell'Apocalisse. Gesù usa questa espressione 9 volte in forma diretta, le altre volte sotto forma di un verbo. Prendiamo quindi subito in esame la forma diretta che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 4 Gesù parla con la Samaritana. Il discorso verte sul Messia e noi leggiamo che Gesù le disse: «Io sono colui che ti parla». Gesù non stava sostenendo, come vari traduttori hanno voluto far comprendere, traducendo «sono io», di essere lui il Cristo. Con tale risposta Gesù voleva far comprendere alla Samaritana di essere Yahweh, la divinità dell'Antico Testamento. I discepoli si trovarono in un mare agitato e videro Gesù che camminava sulle acque. E noi leggiamo nel Vangelo che egli disse: «Io sono, non temete». Alcuni traduttori hanno tradotto «sono io», ma con una simile traduzione impediscono al lettore di comprendere ciò che è avvenuto sul lago. Con l'affermazione «io sono», Gesù si presenta come Yahweh, la divinità di Israele e dei cristiani. E solo a questo punto Pietro, secondo il racconto di Matteo, chiede di andare a lui. Chi non avrebbe chiesto questo? Al capitolo 8, sempre del Vangelo di Giovanni, Gesù ha una ennesima discussione con i giudei. E Gesù risponde: «Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Con questa affermazione Gesù è stato categorico: «Se voi non credete che io sia Yahweh, non sarete perdonati dai vostri peccati». I giudei non avevano capito ciò che Gesù disse, così continuò dicendo: «Quando avrete innalzato il figliol dell'uomo, allora conoscerete che io sono». Gesù profetizza che avrebbero creduto in lui come Yahweh solo dopo la sua crocifissione. Infine, dopo un lungo dibattito, sempre al capitolo 8, leggiamo che Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Parrebbe che Gesù, affermando io sono, abbia commesso un errore di grammatica. Infatti, egli avrebbe dovuto dire io ero. La sua, però, era un'affermazione della sua divinità e la propria identificazione con Yahweh, che era nel pruno. Infine, Gesù stava annunziando ai suoi discepoli che qualcuno lo avrebbe tradito. Poi aggiunse: «Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate che io sono». Gesù profetizza il suo tradimento per confermare la propria divinità. In alcune Bibbie si legge: «Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà venuto crediate che io sono il Cristo». Ma il traduttore non ha compreso il pensiero di Gesù. Gesù non stava affermando di essere il Cristo, ma Yahweh. Forse l'espressione «io sono» di Gesù nel Vangelo di Giovanni è più eclatante al capitolo 18, quando viene arrestato. Vogliamo ascoltare il racconto. Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale entrò lui con i suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anche lui quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei, venne là con lanterne, torce e armi. Gesù, allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Ora Giuda, che lo tradiva, era anche egli con loro. Appena egli disse loro «Io sono», essi indietreggiarono e caddero a terra. Gesù dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro». In questo episodio Gesù usa per 3 volte il nome della divinità di Israele. La prima volta, quando lui chiede chi cercate, e loro risposero Gesù il Nazareno, Gesù disse loro: «Io sono». Gesù stava avvertendo i soldati e le guardie che egli, il Nazareno, è Yahweh. In seguito l'Evangelista Giovanni commenta: «Appena Gesù ebbe detto loro "Io sono", indietreggiarono e caddero in terra». Le persone che volevano arrestare Gesù, dopo la sua risposta, indietreggiarono cadendo dalla paura. Perché caddero a terra? Avevano paura? Paura di chi? Essi avevano compreso che Gesù avesse affermato d'essere Yahweh, la loro divinità. E Gesù chiede di nuovo: «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andare questi». Per la 3ª volta Gesù testimonia della sua divinità, identificandosi con Yahweh, cercando di rendere i presenti coscienti di quello che stavano facendo. Dopo questo episodio, com'è possibile avere ancora dubbi sulla divinità di Gesù? Abbiamo noi bisogno di altri elementi per voler credere che Gesù è la divinità dell'Antico Testamento? Qui non si tratta di non comprendere, ma solo di accettare questi fatti storici che dimostrano senza equivoci che Gesù è la divinità dell'Antico Testamento. Vogliamo ora ascoltare la forma indiretta nella quale Gesù dice di essere Yahweh. «Io sono il pane della vita. Io sono il pane che è disceso dal cielo. Io sono il pane vivente. Io sono la luce del mondo. Io sono il testimone di me stesso. Io sono la porta delle pecore. Io sono la porta. Io sono il buon pastore. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la vera vita. Io sono la vite». Nel libro dell'Apocalisse troviamo le seguenti affermazioni: «Io sono l'Alfa e l'Omega. Io sono il primo, l'ultimo e il vivente. Io sono colui che investiga le reni e il cuore. Io sono la radice e la progenie di Davide». Esprimendosi in questo modo, Gesù stava sostenendo di essere lui, colui che parlava del pruno, di essere la divinità di Israele e dei cristiani, di essere Yahweh, di essere l'incarnazione di Yahweh. Si potrebbe obiettare che l'espressione «ego e mi», cioè «io sono», fosse normale al tempo di Gesù, e questa è una verità, perché la usarono sia gli apostoli, sia Giuda che il cieco nato. Non vi è però dubbio su un fatto: dopo 2000 anni è possibile interpretare l'espressione di Gesù «io sono» erroneamente, ma non è possibile dubitare che i contemporanei di Gesù l'avessero fraintesa. I suoi nemici e i giudei per questa espressione lo volevano lapidare, caddero indietro e infine lo hanno crocifisso. Se i giudei hanno condannato Gesù a morte perché aveva detto «io sono», significa che questa, sulla bocca di Gesù, non fosse un'affermazione normale. Essa significava il suo identificarsi con Yahweh, cioè il suo affermare di essere il loro Dio. Per questo, infatti, egli è stato condannato. Infatti i giudei dissero: «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». L'affermazione di Gesù «io sono» non ha paragoni nella storia delle religioni. Egli non ha detto di essere Dio, cosa che potrebbe anche fare qualsiasi squilibrato, ma ha sostenuto di essere la divinità già presente in tutto l'Antico Testamento. Questo nessuno lo ha mai detto, e ripeto, nessuno. Gesù Cristo non è dunque il più grande uomo che sia mai esistito, come affermano i denigratori della Trinità, ma Yahweh stesso. Se Gesù Cristo non è Yahweh, allora è stato l'uomo più squilibrato, bugiardo e ingannatore del genere umano. Ma la sua vita e le sue parole hanno testimoniato che egli fosse ciò che diceva di essere. Non ci resta che prendere sul serio il solenne avvertimento di Gesù. Vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. La nostra salvezza dipende dall'opinione che abbiamo di Gesù. Possiamo credere che egli sia il Maestro, il Messia, ed essere perduti. Solo chi crede che Gesù Cristo è Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, ha con certezza i peccati perdonati. Ed ora, cari ascoltatori, terminiamo la nostra trasmissione con una curiosità. La scritta posta sul capo di Gesù alla croce, Gesù il Nazareno, re dei Giudei, era la scritta che accusava Gesù. Uno studioso scrive a tal proposito: le parole furono fisse alla croce in ebraico, greco e latino, di modo che tutti potessero comprenderle. Per i giudei di allora il greco non aveva alcun interesse. Il latino, naturalmente, era solo per i romani, per la decima legione che distrusse Gerusalemme. Ma i giudei lessero il testo ebraico. All'epoca di Gesù c'era l'usanza, che persiste del resto ancora oggi, che gli scribi prendessero le lettere iniziali delle parole, componenti una frase, per formarne un'altra con un altro senso. Ecco perché la traduzione della Bibbia in ebraico è stata spesso difficoltosa. Così, improvvisamente, gli scribi si trovarono al cospetto della croce e si accorsero che le iniziali di questa scritta in ebraico non formavano il tetagramma, cioè INRI, come noi siamo soliti vedere in certi quadri raffiguranti la morte di Gesù. Invece, le lettere iniziali di scrizione in ebraico non erano altro che il tetagramma sacro ed impronunciabile del nome di Dio. Il nome Santissimo, che i giudei non osavano neanche pronunciare, che riscrivevano con Hashem o con Adonai. Il nome della loro divinità era dunque lì, affisso al legno della maledizione, in quelle quattro lettere, nella I, nella H, nella W e un H, cioè il tetagramma. Molto probabilmente questa è la ragione per cui, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Ma Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Di fronte a tale testimonianza, non rimane che inchinarsi davanti a Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. Io ho compiuto questo gesto più di 40 anni fa. E tu, caro ascoltatore, lo hai fatto? Non mi rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento per la prossima volta per parlarvi di ciò che dice il Nuovo Testamento in merito alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Ciao a tutti.